La parola di Dio, la Bibbia, è una raccolta di libri che può essere divisa in due grandi parti, Antico e Nuovo Patto. Il Nuovo Patto si compone di quattro racconti della vita di Gesù, Evangeli, e di 23 lettere, mentre l'Antico Patto contiene libri poetici, profetici, storici e cinque libri chiamati Pentateuco o Torah. La Torah, oltre ad avere lo scopo di dare al popolo ebraico leggi spirituali e cultuali, contiene anche quelle civili. Queste leggi civili non solo regolamentavano il reciproco rapporto tra gli ebrei, ma ne formavano anche la cultura. Perciò, per comprendere la mentalità ebraica, è più che mai necessario conoscere le leggi che ne regolavano i rapporti sociali. Prendiamo ad esempio una di queste norme. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni. Ma il 7° se ne andrà libero, senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo apertamente dice: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, e non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipite. Quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punteruolo ed egli lo servirà per sempre. Esodo 21, 2 a 6. La schiavitù è sempre stata, e tuttora è una piaga presente nelle società. Basti guardare alla nazione più potente del mondo, l'America, nella quale per secoli gli schiavi hanno rappresentato un problema non indifferente. La conquista dell'America è nata sotto il segno della schiavitù, si è sviluppata all'insegna di questa piaga e si trascina molte problematiche ancora oggi irrisolte. Non a caso, l'America ricorda ogni anno uno dei più grandi sostenitori dei diritti civili, Martin Luther King, assassinato perché impegnato nella resistenza passiva al razzismo. La schiavitù mette in evidenza il più grande bisogno dell'uomo, la libertà. Sì, per la libertà, uomini, nazioni, hanno combattuto le più grandi e furiose guerre. In vista della libertà sono nati i più grandi ideali e sorti i più grandi eroi. Ma non dobbiamo considerare la libertà solo un bisogno individuale e collettivo. Essa è soprattutto un bisogno psicologico radicato a tal punto nella natura dell'uomo da costituirne la più grande aspirazione. Egli può possedere tutto l'oro del mondo, può godere della stima più grande, può ricevere gli onori più alti e importanti, ma se non è libero tutto questo non lo soddisfa. Come un uccellino in gabbia, può avere il massimo comfort ma rimane la creatura più frustrata. E in questo modo che dobbiamo considerare lo schiavo ebreo. Egli poteva trovarsi in grandissime ristrettezze economiche, o potevano sussistere altre ragioni gravi per le quali egli fosse costretto a farsi schiavo di un altro essere umano. Schiavo. Non c'è nulla di più umiliante, nulla più dell'essere completamente sottomessi ad un altro, dipendere totalmente da un altro, il quale può, a suo piacimento, disporre di te. Se lo schiavo era celibe al momento in cui veniva comprato, quando diventava libero doveva andarsene da celibe. Se quando veniva comprato era sposato, tornava libero assieme alla moglie. Questa legge serviva a proteggere colui che non aveva alcun diritto, giacché lo schiavo non aveva autorità o voce in capitolo. Finché era schiavo, l'uomo non poteva decidere se sposarsi oppure no. Non poteva esprimere neppure tale volontà. Finché era schiavo, anche i suoi sentimenti appartenevano al padrone. Così, se il padrone decideva che dovesse rimanere scapolo, anche se si innamorava, rimaneva senza moglie. Se invece il padrone riteneva di dargli moglie, egli doveva prendere moglie. Doveva, non importava se voleva sposarsi, che ella fosse bella o brutta, che rispecchiasse o meno le sue aspettative, che questa non coronasse i suoi sogni. Doveva sposarla, comunque. Lo schiavo, poiché non era padrone della sua volontà e dei suoi sentimenti, volente o nolente, doveva soddisfare le esigenze e le scelte del suo padrone. Egli poteva dargli per moglie anche una ragazza che difficilmente avrebbe trovato marito, come nel caso di Lea, data da Labano in sposa a Giacobbe, perché ella aveva gli occhi delicati, espressione che fa pensare a una qualche problematica visiva della donna. Oppure, se il padrone aveva bisogno di manodopera, usava lo schiavo per generare figli da usare a tale fine. Fatto sta che lo schiavo doveva sposarsi, convivere e procreare dei figli, che vi fosse un trasporto affettivo o meno. Questo aspetto ci catapulta in una realtà a noi del tutto sconosciuta. Noi agiamo influenzati dai nostri sentimenti, ci nutriamo di ideali ed aspirazioni romantiche, ci muoviamo spinti dalla nostra emotività. Si giudica che la più grande ipocrisia sia non ubbidire alle proprie emozioni. Tutto viene interpretato in tale ottica. Ed ecco che se due persone fanno sesso, noi diciamo che fanno all'amore, se scappano di casa, perché innamorati diciamo che sono scappati per amore. Il tutto viene descritto e interpretato con un termine che esprime uno dei più grandi e il più astruso dei sentimenti del genere umano, l'amore. Altra realtà è invece ciò che leggiamo nella Bibbia. Quando un uomo e una donna avevano rapporti sessuali, gli scrittori biblici usavano due verbi che esulano completamente dagli attuali concetti romantici e idealistici, conoscere o entrare. Il verbo conoscere nell'ambito sessuale non significa sapere, ma esprime l'idea della percezione dell'altrui persona in modo vivo, particolare, così come si è consapevoli della propria persona. Il verbo entrare esprime l'idea meccanica dell'atto sessuale, quando l'organo maschile penetra l'organo sessuale della donna. Tutto qui. La parola di Dio, relativamente al rapporto sessuale, non si perde in frasi romantiche, non costruisce una cornice poetica e sentimentale. La cultura che ci guida a valutare ogni cosa sulla base dei sentimenti è lesionistica per le nostre vite, impedendoci di valutare il lato umano e reale del rapporto sessuale. Ciò non significa che l'atto sessuale debba essere spoglio di sentimenti, attenzioni, affetto, dove forza e tenerezza si devono miscelare, ma il lato umano del rapporto sessuale deve rimanere umano, affinché se ne possa godere secondo il piano di Dio. Ecco in quale contesto doveva vivere lo schiavo. Che la moglie gli piacesse oppure no, che ci fossero dei sentimenti oppure no, doveva vivere e convivere con la donna che il padrone aveva scelto per lui. Era un vero matrimonio? Era un matrimonio giusto? Per alcuni forse no. Esso comunque di fatto era un matrimonio. Perché il matrimonio non è l'unione di due persone romantiche, non è l'armonia di sentimenti, non è il coronamento del proprio sogno d'amore, ma è la convivenza di due persone. Questo non toglie nulla al fatto che, in seguito, potesse nascere l'amore, come nel caso di Isacco quando introdusse Rebecca nella tenda di Sara sua madre e la prese con sé. Ella divenne sua moglie ed egli l'amò. Genesi 24:67. Anzi, possiamo dire che il vero amore nasca proprio dopo che due persone hanno conosciuto i difetti e pregi dell'altro, dopo che hanno convissuto a lungo, dopo che ogni castello in aria è crollato, dopo che si è persa ogni speranza di realizzare i propri sogni. Proprio per questo, leggiamo nella legge di Dio qualcosa di veramente sensazionale. Venuto il momento di ritornare libero, lo schiavo poteva rifiutare di avvalersi di questo diritto e rimanere per sempre schiavo del padrone. Cosa spingeva uno schiavo a rimanere in una situazione umiliante di sottomissione? Cosa costringeva un uomo a scegliere di vivere per sempre da schiavo? L'amore. L'amore verso il padrone, verso la moglie e i figli nati dalla loro relazione. È veramente straordinario. Lo schiavo poteva andarsene solo, recuperare quella libertà che ogni essere umano agogna nel suo intimo. Ma, per amore, sceglieva la schiavitù. Ora la schiavitù non è più una situazione da subire, una situazione dalla quale liberarsi ad ogni costo, ma diventa il mezzo per poter stare con colei che si ama e dalla quale si ha avuto dei figli. Lo schiavo poteva avvalersi del diritto di diventare libero, ma rifiutava il diritto alla libertà. Il punto è questo. La legge civile permetteva che lo schiavo ebreo, dopo 7 anni di schiavitù, ritornasse libero. Ma questa norma metteva anche in risalto un atteggiamento fondamentale dell'amore, la rinuncia. Rinuncia, che possiamo trovare nella sua massima espressione in Dio. Per amore Dio ha rinunciato a suo figlio e lo ha dato in sacrificio. Per amore Gesù Cristo ha rinunciato alla sua gloria, si è fatto uomo, ha dato la sua vita quale prezzo di riscatto per tutti, anche per quelli che lo hanno crocifisso. Imitando Dio, è per quell'amore rinuncia che si dovrebbero avere dei figli, al fine cioè di rendere partecipi altri esseri umani della gioia della vita, sebbene educarli a un grande costo. Ho conosciuto sposi che non volevano avere figli per non rinunciare al loro tenore di vita e alla loro libertà. Si possono avere dei bambini anche contro voglia, ma solo gli sposi, mossi dall'amore rinuncia, sapranno suscitare nei loro figli il desiderio di vivere. Quanti figli hanno sofferto e soffrono tuttora perché per gli sposi sono il risultato di un errore di percorso e per questo non sono graditi, quasi che la colpa fosse loro. I genitori li hanno generati e partoriti, ma li uccidono ogni giorno con le loro parole, scaricando il dispiacere delle rinunce subite su di loro. Il vero amore per sussistere deve avere la componente della rinuncia. Chi non ha compreso questo aspetto è destinato a fallire nei rapporti con il prossimo e soprattutto nel matrimonio. Prima di sposarmi, una persona che dubitava la maturità della mia scelta, dettata a suo parere solo dall'entusiasmo, mi chiese che cosa fosse per me il matrimonio. La mia risposta sicura e ferma lo lasciò in silenzio. Una rinuncia. Sì, il matrimonio è un dono di Dio. È un'istituzione di gioie e di benedizioni, ma in un contesto di rinuncia senza la quale non esiste possibilità di vivere un equilibrato rapporto di coppia. Vi è la rinuncia alla propria libertà, perché bisogna tenere presente anche quella dell'altro. Vi è la rinuncia al sonno profondo, quando i bambini piangono. Vi è la rinuncia di volere un coniuge secondo le proprie aspirazioni. Vi è la rinuncia alle giornate tranquille, quando i bambini mettono sotto sopra la casa. Tutto è fattibile se vi è una spontanea rinuncia, ma la rinuncia dell'amore, esattamente come quella del servo che per amore rinuncia alla propria libertà. A mio avviso la massima espressione dell'amore rinuncia lo troviamo in un episodio narrato nell'Antico Testamento e precisamente nel secondo libro dei Re. Molti credenti leggono mal volentieri l'Antico Testamento perché vi trovano descritti episodi cruenti e ripugnanti. Tuttavia, dobbiamo sempre tenere presente che la Bibbia non è un libro romantico per persone sentimentali. Narra gli eventi reali della vita degli uomini, perché Dio ci vuole insegnare che il suo amore non è un melenso sentimento, ma un agire positivo nel mezzo della malvagità degli uomini. Salomone si svegliò, ed ecco era un sogno. Egli tornò allora a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore, e offerse olocausti e sacrifici di ringraziamento, e fece un banchetto per tutti i suoi servi. Poi vennero dal re 2 prostitute e si presentarono davanti a lui. Una delle 2 donne disse: «Oh mio signore, questa donna ed io abitiamo nella stessa casa. Io partorì quando essa era in casa. 3 giorni dopo che io avevo partorito, partorì anche questa donna, e non c'era alcun altro in casa all'infuori di noi due. Il figlio di questa donna morì durante la notte, perché ella gli si era coricata sopra. Ella allora si alzò nel cuore della notte, prese mio figlio dal mio fianco mentre la tua serva dormiva, e se lo pose in seno, e sul mio seno pose il suo figlio morto. Quando al mattino mi alzai per allattare mio figlio trovai che era morto. Quando però lo esaminai attentamente al mattino, vidi che non era il figlio che io avevo partorito. Allora l'altra donna disse: «Non è vero. Mio figlio è quello vivo, e il tuo è quello morto». Ma la prima insistette: «Non è vero, tuo figlio è quello morto e il mio quello vivo». Così bisticciavano davanti al re. Allora il re disse: «Una dice: quello vivo è mio figlio e quello morto è il tuo. E l'altra dice: non è vero, quello morto è tuo figlio e quello vivo è il mio». Il re allora comandò: «Portatemi una spada». Così portarono una spada davanti al re. Il re quindi ordinò: «Dividete il bambino vivo in 2 parti e datene metà all'una e metà all'altra». Allora la donna del bambino vivo, che amava teneramente suo figlio, disse al re: «De, signor mio, date a lei il bambino vivo, ma non uccidetelo». L'altra invece diceva: «Non sia né mio né tuo, ma dividetelo». Allora il re, rispondendo, disse: «Date alla prima il bambino vivo e non uccidetelo, perché è lei la madre del bambino». Tutto Israele seppe della sentenza pronunciata dal re e temette il re, perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. 2 Re 3, 15-28. La situazione che si era creata non era certamente delle più facili. Due donne, tra l'altro prostitute, cioè inaffidabili moralmente, reclamavano il diritto d'essere la madre del bambino vivo. Come smascherare quella che mentiva? Salomone non ha usato il metodo convenzionale del processo e di una giuria, ma ha pronunciato con decisione l'impensabile ordine di dividere, e quindi di uccidere, il bambino. La decisione, apparentemente rozza e sanguinaria, avrebbe rivelato chi fosse la mamma del bambino. Infatti il risultato fu immediato. La mamma del bambino, piuttosto che perdere la creatura che amava, scelse di rinunciare ai suoi diritti di mamma. «Si è dato vivo all'altra? Sì. Io rinuncio ai piaceri di allevarlo, accarezzarlo, a vederlo crescere e diventare grande, purché egli viva. Se la mia rinuncia è per il bene del bambino, sono disposta al sacrificio della rinuncia. Questo è l'amore. L'amore soffre a causa dell'oggetto che ama. L'amore soffre perché rinuncia. Rinunciare non è né simpatico né piacevole. Si può rinunciare per ricavarne un vantaggio, per atto d'eroismo. Ma quando si rinuncia per amore, perché l'amato si è avvantaggiato, per il suo bene quasi sempre si fa contro il proprio piacere. La vita non è sempre simile ad un rapporto sessuale normale, nel quale ambedue i partner trovano piacere e soddisfazione. Spesso la vita è paragonabile allo spasmo di un desiderio sessuale inappagato e, come tale, si sa, non è né piacevole né romantica. Infatti, l'amore rinuncia è molto più difficile da esercitare dell'amore dare. Come Adamo ed Eva dovevano per amore rinunciare al frutto proibito, così chi afferma di amare Dio deve rinunciare a ciò che, sul momento, può essere appagante. Sta scritto: tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. 2 Timoteo 2 e 19. Come lo schiavo per amore sceglieva di rinunciare alla sua libertà, così chi ha scelto per amore d'essere schiavo di Gesù Cristo deve rinunciare alla sua libertà per ritirarsi da tutto ciò che non sia conforme alla volontà del suo padrone. Se un uomo come schiavo per amore sceglie di stare sottomesso ad un altro uomo peccatore e mancante come lui, quanto più il credente sceglierà di sottomettersi a colui che lo ha creato e amato al punto di non essere trattato come un padrone ma come uno schiavo. Se grande è l'amore di uno schiavo che sceglie di rimanere tale, quanto più sublime è l'amore di Cristo che, essendo padrone, si è fatto schiavo per amore degli schiavi. Un simile amore non ha eguali. A noi uomini non rimane che la gratitudine di un amore ricambiato, 1 GV 4.19, di ugual misura. 1 GV 3.16. Febbraio 2002. Ellero.